Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. Eccolo il medico che visita il nostro malatino. Tira fuori la lingua. Sfido che non mangia, questo ha bisogno di una purga. Buongiorno e benvenuti, buon sabato, bentornati a Obiettivo Salute Weekend. Sì, oggi l'invito suona un po' particolare. Tirate fuori la lingua. Di questo muscolo così importante, a volte biforcuto, ci occuperemo oggi, ma non solo. Parleremo della salute delle mucose della nostra bocca, quindi parleremo anche di gengive, ma parleremo anche del lubrificante della nostra bocca, quello che assicura anche l'equilibrio al nostro cavo orale. Parleremo di saliva. Allora, oggi intanto vi presento, state lì con la lingua fermi, in posizione di riposo, eccola. Adesso vi presento l'ospite di oggi. È qua in studio con me il professor Luca Levrini, odontoiatra e docente all'Università degli Studi dell'Insubria. Buongiorno professore. Buongiorno, bentornato. Ciao. Allora, la nostra lingua è un muscoletto a volte biforcuto che è responsabile di una serie di funzioni importantissime, perché con la lingua parliamo, con la lingua assaporiamo il cibo e poi anche interviene nel processo di masticazione e di deglutizione. Insomma, ne fa molte e poi quando è biforcuta riesce anche a fare danni. Partiamo da qua. Tra l'altro la lingua è un muscolo molto forte. La lingua è un muscolo fortissimo. Fortissimo. Di fatto tutte le volte che deglutiamo esprime delle forze importanti che permettono al bambino di far crescere correttamente, per esempio, il mascellare superiore. Non è un muscolo da poco, è un muscolo che sicuramente durante la giornata ci permette, come dicevi, di deglutire, di parlare, di assaporare il cibo. Se non ci fosse la lingua, noi non gusteremmo il cibo che mangiamo. Diciamo di una persona che sparla e ha sempre da dire qualcosa su qualcuno, è una linguacciuta, è una linguaccia. In realtà noi abbiamo la dimensione della nostra lingua è più o meno simile, standard, sì. Diciamo così, poi ciascuno la usa in modo differente. Certo, tutte le lingue più o meno hanno una dimensione come il cervello e come gli occhi più o meno uguali tra di noi. L'importante è il contenitore in questo caso, cioè mentre il cervello bene o male ha sviluppato attorno a sé una calotta cranica che esprime le dimensioni del cervello, così come i bulbi oculari dell'occhio, per la lingua è diverso, perché il contenitore che sta attorno potrebbe avere delle dimensioni diverse che in qualche modo portano le funzioni di deglutizione, di respirazione, di masticazione ad essere alterate. Se vedo solo la parte superiore, quindi la parte dura del palato, significa che la lingua è troppo grande rispetto al contenitore. Se invece riesco a vedere le tonsille, il palato molle, magari se sono fortunato quello che ci sta dietro c'è l'adenoide, significa la lingua che è correttamente dimensionata rispetto al contenitore, cioè la bocca e la mandibola. Allora, prendete uno specchio se volete fare questa autoispezione, se no osservate e valutate se la lingua del vostro compagno, del vostro bambino, del vostro collega ha un contenitore adeguato certo. Un pochino più stretta. Perché se ce l'ha stretta potrebbe essere un paziente che russa, un paziente che durante la notte va in apnea, ecco. Ecco, problema. Quindi se siete lì per cercarvi un fidanzato, fate questa prova della lingua, perché probabilmente state comprando un russatore. Ma scherzi a parte, certo. Professore, la lingua è importante, ha tante funzioni, è intelligente, è sensibile. La lingua per tanto tempo è stato un po' un banco in cui il medico osservava un po' lo stato generale di salute del paziente. La osservava, era una sorta di cartina tornasole della salute e del benessere. Adesso non so se i medici ispezionano ancora la lingua, probabilmente hanno degli esami differenti, ma la lingua racconta perché dal suo colore abbiamo sentito sordi in apertura, ma anche dalla sua compattezza, racconta molto al medico e anche a un odontoiatra. Abbiamo visto la lingua, abbiamo cercato di capire se ha un contenitore adeguato. adeguato. Adesso, sempre davanti allo specchio, andiamo a osservare con il suo occhio clinico, che gentilmente lei ci impresterà, per valutare la nostra lingua. Certo, la lingua può avere un aspetto diverso. Ora non entro nel merito troppo specifico di alcune caratteristiche, però in linea di massima potremmo chiederci e vedere se la lingua è più chiara o meno. Sì. Se è più chiara, significa e potrebbe significare che le cellule di sfaldamento, quindi le cellule della mucosa morte, vengono in superficie e non vengono sufficientemente rimosse. E quindi di fatto è sufficiente in questo caso prendere uno spazzolino, pulire la lingua e in qualche modo far tornare la nostra lingua all'aspetto originario, perché di fatto quel bianco in realtà non è altro che la patina delle cellule morte della lingua unitamente a un po' di placca batterica e di batteri. Strofinate delicatamente, perché poi dicono: ho sentito Obiettivo Salute, e poi ecco, non con una paglietta abrasiva. No, ma è sufficiente anche con lo stesso spazzolino da denti, nel senso che con un movimento che va dalla gola verso la punta della lingua, strofinarla delicatamente è un qualcosa che sicuramente porta ulteriore igiene alla bocca, perché noi siamo sempre concentrati sui denti. I denti sono l'unico anfratto di batteri. È felice che oggi che l'ho invitata, realtà, perché parliamo di tutto quello che sta intorno ai denti. Assolutamente. La lingua deve essere spazzolata come i denti, perché di fatto anche la lingua è un anfratto di batteri. È chiaro che sulla lingua non c'è lo smalto e quindi la lingua non si caria. Cioè, meno male. Però meno batteri almeno ci sono, meno batteri ci sono e meglio è. Professore, prima di dare la linea alle informazioni sul traffico, subito dopo ispezioneremo le nostre gengive, ma valuteremo anche quanto la nostra saliva fa il suo lavoro. Certo. Ci sono delle lingue che si arrossano, vediamo dei puntini rossi, o la famosa lingua carta geografica, quindi con delle chiazze proprio che richiamano la carta geografica. Un consiglio: come si interviene? Si va con degli sciacqui, si usano dei colluttori, si utilizza questo spazzolino? Come si può? Allora, cerchiamo di capire cos'è la lingua carta geografica o glossite migrante. È un'infiammazione che riguarda il tessuto superficiale della lingua. Dove si ha questa infiammazione, le papille, quelle protuberanze, sì, che escono dalla lingua, quei bitorzolini che non sono bitorzoli, no, ma insomma che abbiamo sulla nostra lingua, si annullano. E quindi come se fosse del velluto liscio. Questa infiammazione può in qualche modo migrare nella lingua e quindi spostarsi, per cui sembra una carta geografica, però cambia un pochino nel tempo i territori. Che tipo di problemi hanno questi pazienti? È una forma benigna che non dà nessun tipo di problema, però può generare dei problemi, tra cui il bruciore, per esempio, nel senso che una lingua carta geografica può avere più bruciore rispetto agli altri. Sì, magari anche al contatto con dei cibi acidi, penso agli agrumi. Assolutamente. La strategia è l'attesa, nel senso che comunque il paziente ce l'ha, convive con essa, non può e non deve fare niente se i sintomi non diventano gravi. A questo punto l'utilizzo di cortisone locale potrebbe essere una strategia che però comunque è fortemente limitata. Certo, nel è caso concordata sicuramente con il medico. Adesso che cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori? Lingua in posizione, ma dentro, poi ecco, lingua dentro, ma dove si appoggia la lingua? State lì, ditemi dove si appoggia la vostra lingua, poi il professor Levrini ci dirà il resto. Intanto andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, sulle autostrade, poi ritorniamo subito dopo insieme. Obiettivo Salute Weekend. Andiamo avanti con gli scioglilingua. Va bene, subito. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. A pelle, figlio da pollo, fece una palla di pelle e di pollo. Tutti i pesci vennero a regala a mangiare la palla di pelle e di pollo fatta da pelle, figlio da pollo. Eccoci tornati insieme. Intanto la conoscete anche voi, potete esercitarvi. Ma bentornati a Obiettivo Salute Weekend. Vi ricordo che domani vi aspetto alla Bufala in Tavola e durante la settimana a Obiettivo Salute alle 12. Senza dimenticare, ci teniamo perché hanno grande successo e io vi ringrazio, le video interviste live che facciamo su Facebook ai nostri esperti e che potete rivedere sulle pagine del programma o sul mio canale di YouTube o di quello di Radio 24, dove tra l'altro ha partecipato anche il professor Levrini per una puntata che ha avuto grande successo. Abbiamo invitato il professor Levrini a seguirci nella nostra camera da letto, abbiamo parlato di russamento. Cosa stavate pensando? Abbiamo parlato di, anche lei ride, ma siamo seri, perché l'odontoiatra può risolvere anche alcuni disturbi che riguardano la sfera del sonno. Esatto. Abbiamo parlato di russamento, abbiamo parlato di apnee, di bruxismo. Il professor Leverini ci ha spiegato anche come riconoscere se il nostro bambino ha un'apnea. Adesso noi dobbiamo occuparci di lingua, di mucose che vengono sempre un po' trascurate, di gengiva e di saliva. Se volete saperne di più, andate a riascoltare la diretta Facebook del professor Leverini. Come teniamo la lingua quando abbiamo la bocca, io lo so già che lei mi dirà che non va bene, chiusa, che poi non è proprio serrata, perché, vero? Certo. Guardi quante cose ho imparato a frequentarla. La posizione normale della lingua a bocca chiusa deve essere con la punta appoggiata sul palato, meglio ancora appoggiata al di sopra della parte linguale degli incisivi, cioè la parte che sta all'interno degli incisivi. Quindi dove c'è praticamente dietro gli incisivi quella rughettina lì. Si chiama ruga palatina. Ogni rughetta ha il suo nomino. E deve star lì nel momento in cui io deglutisco, cioè se io mando giù la saliva... La punta della lingua deve appoggiare proprio lì sopra. Professor Leverini, in questa puntata abbiamo deciso di così occuparci della nostra bocca e di tenere un attimo tutte le problematiche legate ai denti da parte per una nuova puntata e vogliamo parlare quindi di mucose, di gengive, ma io prima farei anche una piccola parentesi sulla saliva, che è per la nostra bocca quello che... Le lacrime sono per i nostri occhi, un liquido importantissimo perché deterge, lubrifica, oltre che avere un ruolo importante nella masticazione, che possiamo considerare una sorta di prima digestione. Infatti le nostre nonne ci dicevano mastica bene perché così se no non digerisci. Se non c'è la quantità sufficiente di saliva, anche questa fase così importante potrebbe essere in qualche modo compromessa. E a volte abbiamo la sensazione, non solo quando parliamo troppo, di avere la bocca asciutta. Certo, la bocca asciutta è un problema emergente, spesso correlato all'assunzione di farmaci. Si calcola che circa il 22%-25% abbia questo problema e spesso questo problema è legato in parte all'età, perché più si va negli anni e più di fatto si ha questa sensazione di bocca secca, ma soprattutto al fatto che i farmaci inducono questa problematica. Problematica che incide innanzitutto sulla capacità di parlare, sulla capacità di deglutire, di relazionarsi e il fastidio che genera, ma anche sul fatto che si determina nel cavo orale una situazione che potenzialmente può portare a patologie. Quali patologie? Patologie alle gengive, patologie ai denti, patologie alle mucose. Di fatto avere saliva in bocca con un pH corretto è una condizione di salute da preservare nel tempo, perché se viene meno la bocca può ammalarsi. Perché infatti, professor Leverini, adesso si parla molto del microbiota intestinale, ma neanche nel cavo orale c'è una comunità, possiamo chiamarla così, di batteri, e sicuramente la saliva riesce anche a tenere buoni. Certo, noi siamo batteri, quindi anche in bocca abbiamo batteri, e abbiamo batteri buoni e batteri cattivi. Si sa perfettamente che alcuni batteri cattivi in determinate condizioni, cioè in una condizione che è saliva acida, diventano aggressivi. E quindi è assolutamente forte quello che dico, ma se la saliva avesse un pH costante, basico e quindi fisiologico, potremmo non avere carie, perché in quella condizione i batteri della carie non esercitano la propria aggressività in modo forte. Professore, ma come fare? Perché sicuramente le persone che assumono delle terapie per malattie croniche non possono evitare di assumere i farmaci e quindi devono in qualche modo gestire comunque questo problema. Ma le chiedo anche un'indicazione, un aiuto, se è il caso, alle persone per mantenere un buon pH nel proprio cavo orale, garantendo quindi anche una qualità di saliva adeguata. Certo. Allora, per chi ha la bocca secca, le strategie possono essere innanzitutto bere acqua a piccoli sorsi, utilizzare gomme da masticare o caramelle dure senza zucchero o con zuccheri comunque che non siano aggressivi per le carie dentali, e assumere dei sostituti salivari o comunque dei gel, degli spray che stimolano la produzione di saliva. Cito un principio attivo che potrebbe essere la carnosina, per esempio. La carnosina, che è molto contenuta nella carne, nei muscoli, a dimostrare che quando io metto in bocca una polpetta in qualche modo stimola la produzione di saliva. Ecco, utilizzare magari un farmaco che abbia questo principio attivo che stimola la saliva è una cosa importante. Questo per chi ha di fatto un difetto di produzione di saliva o la sensazione di avere la bocca secca. Per quanto riguarda invece il mantenimento del pH a un giusto valore, lavarsi i denti è un buon requisito, perché di fatto gli stessi batteri che nel pH basico non producono sostanze nocive, a un pH acido si scatenano. Ma soprattutto usare dei bicarbonati potrebbe essere una soluzione, oppure dei cibi basici, per cui non so, a fine pasto mangiare, dico dell'uovo, dico dei funghi, dico per esempio del formaggio, può in qualche modo riportare la saliva a una basicità che può essere positiva per la salute della bocca. Ricordo il titolo del suo libro, professor Levrini, La dieta del sorriso, mangiare bene per la salute della bocca. Io già dormo preoccupato, perché la inviterò alla bufala in tavola, certo, per una puntata proprio dedicata alla dieta che fa bene alla nostra bocca. Passiamo alle gengive che sanguinano, non trascuratele, perché le spazzoliamo, sanguinano, poi dicono vabbè, però dopo un po' non sanguina più. Che cosa ci dice la gengiva che sanguina e interveniamo subito per evitare che il problema si aggravi? Gengiva che sanguina, gengiva infiammata. Cioè, tutte le volte che spazzolo i denti e in qualche modo dalla mia bocca esce del sangue, significa che una parte della gengiva o tutta la gengiva è infiammata. Perché di fatto la gengiva funziolese, quindi perde la propria funzione di trattenere il sangue, cessa completamente la propria funzione e rilascia del sangue. Cosa fare? Bravo. Spazzolarsi i denti in modo più adeguato, andare dall'igienista dentale a togliere il tartaro che magari ne è la causa determinante, e soprattutto usare dei prodotti che magari in modo acuto possano risolvere il problema. Per cui dei colluttori contenenti clorexidina potrebbero essere d'aiuto, perché la clorexidina è l'unico antibatterico orale che in qualche modo può togliere l'attività negativa dei batteri che determinano l'infiammazione delle gengive. Senta, professore, ma non potrebbe essere anche un uso non corretto del filo interdentale a ferire la gengiva? Oppure a sollevarla un po'? Insomma, a volte noi per fare bene ci facciamo del male. In effetti il filo interdentale è uno strumento che giustamente deve essere suggerito, però merita attenzione nel momento in cui viene utilizzato, poiché se utilizzato in modo opportuno può ferire la gengiva. Però anche in questo caso sanguina la gengiva se ferita dal filo interdentale, se la gengiva è infiammata, perché se una delle gengive perfette rosa, non infiammata, una può in qualche modo ferire la gengiva ma non sanguina come una gengiva infiammata. Si può fare la seduta di igiene dentale anche quando sono in quella condizione in cui le ferite sanguinano, bisogna assolutamente farla, perché di fatto togliere il tartaro, non solo quello che si vede, ma il tartaro che non si vede, che è quello sotto, che è quello che determina non solo la gengivite, quindi l'infiammazione superficiale della gengiva che sanguina, ma l'infiammazione dei tessuti profondi, tra cui l'osso che sostiene il dente, deve essere fatta immediatamente. Quindi non aspettiamo. No, assolutamente. Professor Levrini, ultime due indicazioni per chi soffre di afte. Ci sono persone che anche in momenti, magari quando si sentono sotto stress, fanno i conti con questo dolore che è molto fastidioso dell'afta, che non, sicuramente tutti le abbiamo provate almeno una volta nella vita, ma ci sono delle persone che hanno come una sorta di abbonamento all'afta, tanto che più afte nel cavo orale, parlavo con un gastroenterologo che suggeriva di valutare la presenza eventuale di un'intolleranza al glutine. Esatto, dunque innanzitutto afta minor e afta maior. Afta minor sono quelle piccole, 2 mm di linea, ma afta maior sono quelle enormi, quelle che veramente fanno male. Sulle minor l'atteggiamento deve essere ovviamente di attesa, nel senso in 2-3 giorni passano, al limite utilizzare delle sostanze con acido ialuronico che in qualche modo costituiscono una pellicola che inibisce quel senso di fastidio che uno ha. Sulla maior ovviamente bisogna intervenire diversamente. Una strategia potrebbe essere il laser, che riepitelizza in modo rapido la lesione aftosa e soprattutto fa in modo che passi più periodo dalla ricompensa della stessa. Definire la causa, perché di fatto ormai è dimostrato dalla letteratura come l'afta minor associata magari a delle pigmentazioni dello smalto non adatte possono far ipotizzare una malattia celiaca nel bambino. Anche se l'afta minor spesso quelle piccole sono dovute a irritazioni, certo, a stress, e quindi verificare nella dieta cosa viene assunto oppure cercare di capire se non sia oggetto di una malattia psicosomatica, quindi sostenuta dallo stress. Professor Levrini, chiudiamo con un'indicazione. A volte nella nostra bocca abbiamo delle lesioni, devono guarire spontaneamente entro quanti giorni per rappresentare un possibile problema? 10 giorni, nel senso qualsiasi lesione che abbia un aspetto bianco che non riesco a rimuovere o rosso che non si risolve nel giro di 10 giorni, una volta che ho sottoposto a una terapia antinfiammatoria con clorexidina, sicuramente deve essere oggetto d'attenzione. Ecco, mi raccomando, abbiamo dato i tempi, professor Levrini, grazie. Grazie a voi. Lei ha guadagnato una bufala in tavola, io l'aspetto. Perfetto. Perché con lei voglio parlare di zucchero e denti. Certo, e formaggio e vino. E quant'altro. Intanto potrei invitarla anche a pranzo, la bufala in tavola. Buon pranzo anche a voi, ci siamo quasi. Intanto vi aspetto domani, sempre a mezzogiorno, per una nuova puntata della bufala in tavola. Buon sabato da Nicoletta e ci sentiamo domani.